L'ho incontrato in una cella tra quaderni che sanno di notti senza luna. Parla di egemonia che ti entra nella testa, così la rivoluzione in Occidente non comincia mai davvero. Leggo lettere dal carcere, brandelli di futuro tra mura fasciste e un mondo ancora duro. E in questa metafisica del linguaggio che inseguo provo a cucire Marx, la rete ciò che vedo. È sempre la struttura che muove la danza, la sovrastruttura è solo una parvenza. Intellettuali in gioco, chi comanda la coscienza, se servirebbe il padrone non centralizzata, forse cade l'impero e la paura è disarmata. Oh. Hey, hey. Liberanza. Hey, hey, hey. In Occidente, dice Gramsci, non c'è stata tempesta perché gli intellettuali organici tengono ferma la testa. Scrivono programmi, leggi, slogan e metodi a pacchi così il proletario dorme in mezzo alle macerie e grattacieli alti. Gli altri, quelli tradizionali, senza un padrone chiaro, vengono integrati piano piano dentro l'apparato raro. Contadini del nord città, fabbriche e ministeri, ognuno al suo posto a reggere gli stessi cieli. La scuola è la fabbrica dove il destino si divide, i poveri e professionali, ricchi e licei alle torri che sorride. La riforma gentile che taglia il latino e il greco per darti solo il metodo utile al mercato, non al pensiero autentico. Voti come gabbie, materie sacrificate, non vuoi teste libere ma menti addomesticate. Intellettuali organici premiati dalla selezione che cento anni fa già vedeva Gramsci in ogni lezione. È sempre la struttura che muove la danza, la sovrastruttura è solo una parvenza. Intellettuali in gioco, chi comanda la coscienza, se servirebbe il padrone non esiste liberanza. Ma se la rete è nostra, libera e decentralizzata, forse cade l'impero. Arrivò la rete, anni 90 e 2000, nuova terra vergine dove chiunque si profila. Blog, forum, universi senza volte, senza rango. Eri imprenditore, ragazzino hacker, ma lì eri solo linguaggio. Intellettuali tradizionali in questo spazio sospeso, parole copyleft, musica libera, codice steso. Partiti pirata come bandiere nel segnale, una rivoluzione digitale che bussava al mondo reale. Ma piano sono arrivati i nuovi organici della rete, alzando di piattaforme, di brand e di monete. La classe che possiedi serve il cloud e le città, trasformo ogni grammatica in pubblicità. L'IOP conveglia sopra ogni conversazione, modera, seleziona, addestra l'opinione. Gli intellettuali un tempo liberi sul web si ritrovano ingranaggi dentro un social di vetro e LED. È sempre la struttura che muove la danza, la sovrastruttura è solo una parvenza. Intellettuali in gioco, chi comanda la coscienza, se il server è del padrone non esiste liberanza. Ma se la rete è nostra, libera e decentralizzata, forse cade l'impero e la paura è disarmata. Possiamo allora dire che la cultura sia sovrana, o è l'economia che la tiene sotto brana? Gramsci sottovoce dai quaderni lo ricorda, gli organici sono dipendenti, la struttura è la sua scorda. Finché i dati stanno chiusi nei palazzi corporativi, i tecnici dei social non saranno mai davvero lì. Ma reti decentralizzate, zero nette, sorelle, sono in un cielo senza padroni sulle stelle. Server che si sciolgono in nodi senza re, intellettuali senza gioco, solo ciò che tu vorrai di te. Una tecnica condivisa, non privata, nei castelli dove le gerarchie si fanno un po' più friabili, più fragili, più belli. È sempre la struttura che muove la danza, la sovrastruttura. ma non è mai perduta.